con Pippo Mezzapesa, regista del film Il bene mio, in uscita in sala il prossimo 4 ottobre. Pippo, ben trovato. Ciao, ciao a tutti. Presentaci il film. Il film parla della storia di Elia, che è l'ultimo abitante di Provvidenza, un paese fantasma, un paese che è rimasto completamente disabitato in seguito a un terremoto. È rimasto disabitato perché tutta la comunità è scesa giù a valle e ha ricostruito un paese che si chiama Nuova Provvidenza, mentre Elia rimane lì sul colle perché non riesce a elaborare il dolore per la perdita di sua moglie che c'è stata durante il terremoto, ma soprattutto perché diventa una sorta di custode della memoria, cerca di rimettere insieme i piccoli pezzi del passato perché, al contrario degli altri, crede che non ci possa essere un futuro possibile senza una ricostruzione di quello che è stato. Com'è partito tutto, l'idea del film? L'idea del film è partita prima di tutto da un amore che ho per questi luoghi abbandonati, per una fascinazione che ho per i borghi fantasma, che ho girato tanto in fase di preparazione, in fase di studio, e sono disseminati per tutta la dorsale appenninica soprattutto, e poi per la voglia di raccontare un ultimo rimasto, insomma, la lotta di un resistente, di una persona che è convinta che per andare avanti, per aprirsi al mondo, per aprirsi agli altri e anche per elaborare il dolore sia necessario conoscere se stessi e anche affrontarlo, questo dolore. Quindi queste sono le motivazioni principali. Senti, per quanto riguarda il cast, ci sono degli attori come Sergio Rubini, come Dino Abrescia, come Teresa Saponangelo, questi due con cui avevo già lavorato nei cortometraggi. Con Sergio è la prima volta che ci lavoro. E c'è Francesco De Vito, che interpreta il sindaco di Nuova Provvidenza, che vuole chiudere il paese di Vecchia Provvidenza e vuole a tutti i costi buttare giù quest'ultimo abitante. E poi c'è Sonia Mellà, che invece è una splendida attrice parigina di origine algerina, che interpreta Nur, questa ragazza, questa migrante che fugge anche lei da un disastro e che incontrerà sulla sua strada. Dall'idea di partenza poi alla riuscita finale, com'è andata? Ti sei un po' adeguato o sei riuscito a fare tutto come hai pensato in un primo momento? Io sono un po' come Lia, sono uno che resiste. E quindi diciamo che mi piace combattere parecchio. Devo dire che in questo viaggio, che come tutti i viaggi è disseminato di ostacoli, ho avuto dei compagni che hanno sposato il progetto, ho avuto dei produttori illuminati, che Cesare Fragnelli di Altre Storie, ma anche la Rai, che hanno sposato la mia idea di girare in un vero paese disabitato, perché secondo me la storia di un paese fantasma non poteva prescindere dal fatto di essere girata in un autentico paese disabitato. Sì. E infatti con tutte le difficoltà che questo, certo, chiaramente comporta. Certo. E questo ci ha portato a girare ad Apice, questo posto di cui mi sono innamorato, questo paese vicino Benevento di cui mi sono innamorato e che per me rappresentava proprio la Provvidenza che avevo scritto con gli sceneggiatori in fase di sviluppo del film. Sì, sì, sì. Che uscita sarà, Pippo? Il film esce domani, 4, oggi c'è un'anteprima nazionale ad Amatrice, al Cinema Paradiso, alle ore 19. Ci è sembrato un luogo, insomma, adatto per portare questa storia, che è una storia di speranza, prima di tutto, e che guarda con una luce al di là della distruzione. E da domani esce in 60 copie in Italia, in cinema italiano. Ecco, hai detto che per i sopralluoghi hai girato lungo la dorsale appenninica. Che idea ti sei fatto rispetto alle piccole comunità che piano piano si dissolvono? Sai, noi abbiamo questi piccoli gioielli, questi piccoli paesi fantasma, che ovviamente molti dei quali sarebbero difficili da recuperare in toto o comunque da riabitare, ma che molti dei quali sono completamente abbandonati, che invece secondo me rappresentano una risorsa fortissima anche a livello turistico, perché sono davvero dei luoghi incantati, invece sono lasciati, molti di questi sono lasciati a subire la più grossa piaga che possono subire, che è lo sciacallaggio, il vandalismo, e quindi si stanno lentamente deteriorando. Spero che insomma ci sia un recupero e magari quelli che stanno meglio potrebbero anche essere ripopolati, ci potrebbero essere politiche che possano riuscire a ripopolarli anche magari approfittando di queste ondate migratorie, invece di buttarle, di respingerle, Certo. buttiamole e ripopoliamo questi luoghi abbandonati che sono tanti. Sì, specialmente nel sud ci sono stati molti di questi casi virtuosi. Sì, ce ne sono stati, ce n'è stato anche qualcuno in Puglia. Ora Sì. non ricordo benissimo il posto, credo Candela o qualcosa lì vicino, però insomma un luogo che lentamente si stava spopolando per chiaramente l'invecchiamento della popolazione, per l'allontanamento dei più giovani, e ci sono stati degli incentivi al recupero di case, vendite super agevolate in cambio di ristrutturazioni. Pippo, accompagnerai il tuo film adesso in queste prime fasi? Certo, lo accompagno, facciamo un mini tour. Partiamo da dove secondo te? Dalla Puglia. Certo, ma non proprio, non dalla Puglia, da Bitonto, il mio paese. Uno deve partire da Bitonto, altro che local. E poi facciamo, sì, facciamo delle tappe in giro, prima dei cinema della Puglia del Sud Italia, e poi ci sarà Roma, Milano, insomma, toccheremo le maggiori città. Senti, le prime risposte del pubblico alla visione, che mi dici? E le prime risposte ci sono state a Venezia, in realtà. La prima visione, le visioni pubbliche sono state quella alle giornate degli autori di Venezia, e poi le due proiezioni che ci sono state nella rassegna Venezia a Roma. Sì. Devo dire che il pubblico partecipa, il pubblico si emoziona. La cosa più bella per un regista per un regista la cosa più difficile è guardare le prime volte con il pubblico, perché si sta attenti a ogni piccolo colpo di tosse, a ogni distrazione, non ti dico agli sbadigli, ma quindi sono stato particolarmente soddisfatto nel vedere l'emozione del pubblico, c'è stata anche commozione, ci sono stati anche diversi applausi a Venezia, quindi la cosa mi soddisfa ed è un bel premio per me, per il film, ma soprattutto per chi ci ha lavorato. Bene. Allora, ricordiamo il film Il bene mio in uscita in sala il 4 ottobre. Un saluto e un ringraziamento al regista Pippo Mezzapesa. Pippo, un abbraccio, un in bocca al lupo e a prestissimo. Un abbraccio a te e a voi. Ciao. Ciao, ciao, ciao.